Stasera è qui con noi il professor Marco Pugliese, un insegnante delle scuole medie qui a Bolzano che ha la passione per la fotografia, per la storia contemporanea, soprattutto legata al territorio, alla memorialistica, e la condivide con altri due colleghi, De Rensis e De Matteis, e insieme hanno così nella loro raccolta, nella loro ricerca, creato un sito che si può visitare. Sì, visitabile, si chiama www.fotobolzano.com.it, a seconda, ecco. È indifferente. Si può navigare gratuitamente, vedere, scoprire altre foto che forse questa sera non verranno, non ci sarà il tempo necessario per mostrare. Abbiamo invitato appunto il professor Marco Pugliese a questa serata perché anche attraverso, anzi soprattutto attraverso le immagini, la storia del Novecento può essere raccontata in maniera diversa e anche risultare più accattivante. Tra l'altro la biblioteca in questo periodo è impegnata in una raccolta, in una ricerca di foto, di immagini, anche di filmati familiari, privati, laddove possibile, perché in aprile ci sarà il Festival delle Resistenze organizzato dal Servizio Giovani anche in collaborazione con ANPI e con la biblioteca, e abbiamo lanciato un appello più volte anche sul giornale e incominciamo a dover anche raccogliere il materiale perché ci servirebbero delle fotografie che documentino, o dei filmati che documentino il quartiere Europa Novacella negli anni, ecco. Quindi se conoscete qualcuno oppure avete in casa qualche foto e volete così prestarcela temporaneamente per questa iniziativa, potete rivolgervi qui alla biblioteca e poi vi spieghiamo nel dettaglio il progetto. Questa sera, ecco, sono contenta perché Marco Pugliese ci dà il via alle iniziative del 2012 con questa serata che poi si ripeterà in febbraio, mi sembra il 13 febbraio, che è un altro lunedì, sempre alle ore 18, dove invece che il sogno spezzato di una Bolzano imperiale, il titolo sarà le vie di comunicazione, trasporto, quindi tram a cavallo tra inizio del Novecento e fine dell'epoca fascista, in pratica. Quindi sono delle occasioni, degli incontri monografici su alcuni aspetti, ecco, della storia del nostro territorio. Cedo la parola a Marco, vi ringrazio di essere sempre numerosi, vi ricordo chi non fosse iscritto che l'iscrizione alla biblioteca è molto semplice, basta compilare un modulo qui, è gratuita, potete accedere poi a tutti i servizi e soprattutto essere invitati e tenuti costantemente aggiornati su quelle che sono le nostre iniziative. Per quanto riguarda il mese di gennaio, il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo con Vivere Semplice, Secondo Natura, ecco, non ci occupiamo di storia la prossima settimana, l'autore è Alberto Fostini e presenterà appunto questo suo nuovo libro. Ringrazio. Grazie. Marco Pugliese, ti cedo la parola. Buonasera, io mi chiamo Marco, ringrazio per la presentazione, ringrazio per questa opportunità che ci dà. Io parlerò al plurale perché oltre a me qui dovrebbero esserci anche i miei due amici che si sono occupati anche della grafica di questo sito. Io mi sono occupato della raccolta di materiale che ci è stato mandato anche semplicemente via email o che ci è stato direttamente caricato proprio sul sito da internet. E spiego velocemente come è nata questa iniziativa. In realtà, come tutte le iniziative di questo tipo, spesso nascono per caso, e la nostra è nata in questo modo qui. Noi siamo appassionati di fotografia, però non avevamo assolutamente intenzione di creare nulla che fosse un discorso di questo tipo. Poi abbiamo creato quasi per gioco il sito e abbiamo iniziato a caricare foto nostre che abbiamo fatto noi, e nel nostro sito trovate tutte le vie di Bolzano fotografate da diverse prospettive. Questo è stato un lavoro abbastanza lungo che hanno fatto i miei due amici e che è durato parecchio tempo, insomma. L'idea era quella appunto di avere una visione di Bolzano in un certo anno e confrontarla con la Bolzano che è stata. Questa era l'idea di massima. E il discorso poi è diventato più approfondito quando alcune persone gentilmente ci hanno mandato delle foto che possono essere considerate proprio storiche, perché si parla proprio di addirittura foto di inizio Novecento, foto che sono state magari anche solamente prese da un libro, a cui è stato chiesto noi di contestualizzarle storicamente, quindi ci è stato chiesto di fare questo tipo di lavoro. E allora, grazie a Facebook, perché molte persone ci hanno contattato tramite Facebook, abbiamo creato un account anche lì, grazie a questo sito siamo riusciti comunque a farci conoscere da un certo numero di persone. A quel punto abbiamo unito al nostro sito anche un blog dove il sottoscritto scrive degli articoli che vengono anche pubblicati su una rivista locale, e che appunto invece si focalizzano su alcune foto e su alcuni aspetti della nostra città. E, ecco, questa è la pagina dove alcuni utenti hanno caricato delle fotografie su di recente, il 5 di dicembre, eccetera. Utenti spesso che non abitano più a Bolzano. Io ho parlato l'altro giorno con un signore che abita a Canberra, quindi in Australia, ho parlato con persone che abitano in Sudafrica, con persone che hanno ancora di Bolzano un'idea abbastanza nostalgica, un'idea che chiaramente di una Bolzano che non esiste più, e che quindi hanno visitato la nostra parte moderna, perché chi abita a Bolzano è interessato alla parte storica, chi abita invece fuori, all'estero, o comunque non è più venuto a Bolzano, è interessato alla parte moderna. Ah, lì c'era il cinema Corso, lì c'era quello, adesso non c'è quello. Quindi il lavoro è nato così. Adesso io, quando mi è stato proposto di fare questo tipo di approccio, quindi una sorta di conferenza su un argomento ben preciso, ho scelto il titolo volutamente dicendo sogno spezzato, non tanto perché ci siano da parte mia chissà quali ricordi piacevoli di quel periodo storico, anzi tutt'altro, però perché appunto negli ultimi anni a Bolzano spesso, ed è capitato anche a me quando ero studente, mi è capitato di passeggiare per la nostra città e di avere ogni tanto qualche vuoto, nel senso che mi portavano a fare il giro del centro storico, mi spiegavano, poi arrivavo da questa parte del ponte e mi trovavo una serie di strutture che sinceramente non riuscivo a contestualizzare nel resto della mia città. E quindi un po' per curiosità ho chiesto a mio papà, ho chiesto in famiglia, eccetera, mi è stato spiegato di questo periodo, eccetera, eccetera, e dopo mi sono interessato da un punto di vista amatoriale al periodo storico proprio che intercorre tra il Novecento, quindi i primi del Novecento, e il 1960-70, quindi proprio l'evoluzione, secondo me, più grossa urbanistica che c'è stata nella nostra città e che ancora vediamo. Quindi io ho proprio scelto una fotografia che abbiamo fatto proprio con i nostri amici, questa non c'entra, questa foto qui, che è stata fatta nel 2011, ed è una foto abbastanza significativa perché è stata fatta dal Virgolo e fa praticamente vedere proprio la differenza che c'è tra la città che chiamerei più vecchia, quindi asburgica anche, e quella è invece la parte nuova, che è stata costruita quindi a partire dal 1922-25. Le due parti della città adesso si sono fuse con il passare degli anni, e questa fusione è stata più o meno accettata dalla città stessa, perché comunque ci sono, appunto, troviamo delle strutture che si sono andate a inserire in un altro contesto architettonico. Ad esempio abbiamo la struttura nuova del nuovo museo di arte moderna, che si è inserita in un contesto che non era propriamente quello forse che l'architetto aveva in testa quando l'ha costruita. Poi abbiamo appunto il monumento, abbiamo il ponte Talver, abbiamo tante altre cose. Insomma, qui è la veduta verso la città tra virgolette nuova, perché qui c'era campagna fino all'inizio degli anni 30, quindi abbiamo una serie di edifici che sono venuti fuori e sono stati costruiti a partire dagli anni 20-30. E quello che io amo sottolineare tante volte quando si parla di questo periodo storico, che a Bolzano a volte è preso in un modo, secondo me, è preso di traverso, però è preso anche in maniera abbastanza di petto, cioè spesso questo periodo viene poco spiegato, oppure viene spiegato in un certo modo, oppure viene cioè non viene messo nel contesto in cui è stato praticamente vissuto, è stato costruito, in questo caso si parla di architettura. Quindi ho deciso appunto di dedicare questa conferenza a questo aspetto, cioè a questa unione alla fine che c'è stata tra, volenti o nolenti c'è stata, tra quel periodo storico di intermezzo, quindi dall'impero asburgico, quindi dall'Austria all'Italia, che è stato indubbiamente abbastanza violento perché c'è stata un'urbanizzazione che è andata a pari passo con l'instaurarsi di una dittatura che non è stata assolutamente positiva, quindi comunque c'è stata questa violenza, questa botta iniziale di urbanizzazione, però in questa urbanizzazione io credo che alcuni personaggi che hanno lavorato al piano urbanistico di Bolzano in quel periodo ci fossero delle persone che comunque avessero nella mente non solamente la distruzione ma una sorta di armonia architettonica. Infatti gli studi che sono stati fatti in quel periodo non vengono da dottrine di regime. Addirittura alcuni architetti avevano litigato con lo stesso Mussolini perché lui avrebbe voluto modificare strutture portanti dei portici, avrebbe voluto modificare cose che insomma non andavano modificate nemmeno a quel tempo lì, e ha trovato proprio un'opposizione netta dello stesso Piacentini, che è l'architetto che viene ricordato di più, ma che in realtà su certi aspetti ha fatto meno di altri, quindi c'è anche questo appunto, questo ricordare sempre Piacentini, poi in realtà i lavori più grossi sono stati ispirati da Sant'Elia, che era addirittura morto nella prima guerra mondiale, quindi non si può neanche dire che fosse fascista in realtà, perché il fascismo non esisteva ancora, e si può parlare di futurismo. Infatti io ho sottolineato spesso questo aspetto, cioè il cambiare terminologia riguardo all'architettura di quel periodo, magari non riguardo ad altre cose ovviamente, giustamente, ma riguardo all'architettura. Una parte di quell'architettura è considerata fascista perché ha dei simboli, e quello lo si deve dire. Un'altra parte invece, ad esempio, un esempio è il Palazzo Rossi, che abbiamo in Piazza Vittoria, l'architetto lì prese una bellissima tirata di orecchie da Mussolini perché il palazzo venne considerato troppo poco fascista, e quindi venne rimodificata la facciata, venne ricostruito un pezzo e venne comunque un po' rovinato il lavoro dell'architetto. Mi sono soffermato sui lavori che sono stati fatti di recente a Bolzano, parlo di recente negli ultimi 15-20 anni, ad esempio l'Eurac, che personalmente mi piace molto, e l'architetto ad esempio in quel caso lì è riuscito a dare un certo tipo di armonia alla struttura vecchia e alla parte che ha aggiunto lui, quindi se noi l'abbiamo fotografato in varie prospettive, devo dire che il messaggio che voleva dare l'architetto originale è stato mantenuto, e questo secondo me è una bella cosa, perché c'è un valorizzare anche il lavoro dell'architetto precedente senza preconcetti, cioè lì si parlava di architettura. Infatti ricordo che ero ancora alle scuole medie io, e ricordo un'intervista di questo architetto che poi vinse la gara per fare poi il progetto, eccetera, appunto parlava di questa armonia. Infatti nel suo lavoro questa armonia si vede. E quindi penso che quel periodo debba essere in un certo senso ristudiato, perlomeno, secondo me almeno ristudiato, almeno ricontestualizzato e riguardato. Infatti anche ultimamente ci sono state varie polemiche, eccetera, quindi, ma al di là proprio delle idee politiche che vanno secondo me messe un attimo da parte. Stesso discorso che vale per il periodo asburgico, uguale, cioè l'architetto Altman in pratica ricostruì Bolzano nell'Ottocento, che era un semplice, non era una vera e propria città, ma era una sorta di grande mercato, e la ricostruì in stile, diciamo, moderno per l'epoca, che si trasformò in stile Belle Époque fino al Novecento, quindi vennero questi architetti che arrivarono a Bolzano in quel caso dalla Germania, anche se poi ce ne lavorarono anche di italiani, anche se c'era l'impero asburgico, quindi lo scambio era molto vasto, insomma, di conoscenze architettoniche. E quello stile, ad esempio, a Bolzano lo ritroviamo ancora in centro storico, ed è giusto mantenerlo, perché quello è lo stile della nostra città di quel periodo lì, e non va assolutamente modificato o torturato, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, abbiamo la fortuna di avere forse nella nostra città una sorta di libro di storia architettonica proprio che raggruppa annate abbastanza importanti e significative, perché dal 1850 fino al 1950 sono successi ci sono stati un sacco di avvenimenti storici importanti, guerre, modifica di mentalità, cambiamenti proprio epocali, cioè si è passati da un mondo appunto contadino, un mondo ristretto, provinciale, a un mondo più globale, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale ancora di più. Tra prima e Seconda Guerra Mondiale c'era una fase di intermezzo, e chiaramente l'architettura è andata a pari passo. Spesso invece si fa l'errore di considerare il tutto, quindi mentalità, letteratura, architettura di un certo periodo, come errato, comunque come da non riproporre. In realtà invece l'architettura razionale è riproposta adesso nel mondo, ci sono moltissime strutture, in Giappone ad esempio piace tantissimo l'architettura razionale, ci sono un sacco di strutture, in Francia anche è stata riproposta, eppure la Francia non ha avuto regimi, non ha avuto nulla. Certo, in Italia alcune opere possono destare delle polemiche per motivi ovvi, e la nostra città è inserita in questo contesto, che però secondo me l'ha fatta anche crescere, perché comunque anche il continuo attrito comunque fa crescere la continua critica, tutti quanti sono interessati a certi argomenti che magari in altre città potrebbero essere tranquillamente lasciati in un cassetto. Quindi il titolo appunto che ho dato a questa conferenza si basa proprio su questo aspetto, cioè il che cosa volevano fare a quel tempo, il perché lo volevano fare e il perché non è stato fatto, che quello è logico perché è stata persa una guerra, è caduto un regime, eccetera, eccetera. Il cosa è stato fatto dopo però anche la Seconda Guerra Mondiale, perché non è che dopo la Seconda Guerra Mondiale siamo passati a un discorso di mantenimento, perché l'edificio dell'Eurac che è stato lasciato in decomposizione per svariati anni e nessuno si è preso la briga di dire che fosse un'opera da salvare, cioè la si è presa molto, molto in là col tempo, e l'ex cinema Corso è stato secondo me ingiustamente abbattuto, le magistrali rischiavano altrettanto. Secondo me questo sono una sorta di pugni che vengono dati ideologici e politici anche delle volte, se si parla di architettura, di arte in un certo senso, di arte, perché l'architettura comunque è una forma d'arte, non è secondo me corretto prendersela con l'opera architettonica. Il perché della costruzione di certe opere lo si può spiegare, ad esempio a me è successo che alcuni miei alunni mi chiedessero il perché ci fosse una concentrazione di caseggiati fatti in un certo modo nel rione San Quirino, Venezia, rione Venezia. Allora, lì è molto semplice, quello avrebbe dovuto essere il centro della nuova Bolzano, cioè secondo dettami del fascismo, quindi di politica di nazionalizzazione, di modifica totale della nostra città, quello avrebbe dovuto essere il nuovo centro e intorno al Ponte Roma avrebbe dovuto essere costruita la nuova stazione ferroviaria, di modo che chi scendesse dal treno andasse direttamente in centro, non passando nemmeno per il vecchio centro storico. Quindi chiaramente il messaggio era forte, poi la stazione non venne spostata perché scoppiò la guerra. Però il messaggio era fortissimo, era scavalchiamo quel periodo che c'è stato prima di noi, ci creiamo il nostro centro col nostro altare, eccetera, e mettiamo tutti i nostri impiegati, gerarchi, eccetera, nel rione Venezia, che infatti non ha uno stile razionale, e questo è voluto, non ha uno stile razionale, ha uno stile appunto detto veneziano, quindi con le casette più basse, un po' più armoniose, cioè non è monumentale, forte come Piazza della Vittoria oppure come Piazza Tribunale, questo bianco scintillante appunto retaggio di non si sa bene quale impero. Se quello romano, quello etiope, perché in quel periodo lì c'erano questi due contrasti, anche gli italiani secondo me ogni tanto facevano confusione. Quindi passiamo dal bianco a un rione che potrebbe essere costruito anche ai tempi di oggi. Perché? Perché in quelle case non c'erano proprio solamente gerarchi fascisti, ma c'erano anche semplici impiegati dello Stato, quindi persone che comunque non avevano... erano più legate alla monarchia sabauda che al fascismo, e sappiamo tutti che anche a quel tempo lì tra re e duce o chi fiancheggiava per uno o per l'altro non c'era proprio non correva tanto buon sangue, era una diarchia con una suocera e una moglie, quindi non con un marito e una moglie, una suocera e una moglie. Quindi Mussolini aveva un'altra suocera che era Tolomei, che infatti lui fece tantissimi danni nella nostra regione, nella nostra provincia, nella nostra città, purtroppo ne combinò di tutti i colori. Gli stessi fascisti infatti a un certo punto cercarono di togliere a questa persona il potere, perché era senatore, però cercarono di metterlo in naftalina perché appunto Mussolini lo considerava una suocera pedante e anche rompiscatole, perché infatti aveva delle idee assolutamente assurde, avrebbe voluto demolire, fare eccetera. E credo che questo tipo di discorsi, che sono assolutamente giusti e che devono essere assolutamente riproposti a ogni generazione che vivrà nella nostra città, perché non si deve perdere la memoria storica di nessun periodo storico, però non si deve perdere la memoria storica asburgica, non si deve perdere quella del ventennio, non si deve perdere quella del boom economico, perché abbiamo delle strade a Bolzano che ricordano il boom economico, non si deve perdere quella degli anni 90, quella che ci sarà adesso della crisi economica in atto. Quindi questo tipo di discorso deve essere cronologico e continuativo, non deve avere delle voragini o dei buchi, perché altrimenti una persona che si mette a studiare oppure si avvicina alla storia della propria città, non so, parte, io ho visto delle volte dei discorsi fatti proprio a compartimenti stagni, si parte da un periodo, ci arriva un altro, poi sembra che non ci sia nulla, ne arriva un altro ancora, poi si riparte e ne arriva un altro. Quindi questo tipo di, ad esempio, domanda che viene fatta di frequente, io parlo di ragazzi giovani, quindi di persone che magari non sono abituate adesso poi la generazione di nonni inizia a essere, lo vedo a scuola, abbastanza giovane, quindi tanti nonni non hanno più fatto la guerra, non parlano più come il mio nonno mi parlava della Grecia, mi parlava delle campagne, mi parlava del fascismo, eccetera, eccetera. Quindi si inizia a perdere un po' la memoria storica. Questi ragazzi chiedono perché si chiama Ponte Druso e non si chiama Ponte Augusto, ma per cosa c'entra Druso? Ma Druso era un romano, e cosa c'entra col fascismo? Allora, questa serie di domande, secondo me, se non spiegate, possono generare dubbi. E possono generare curiosità particolari, possono generare falsi miti e possono indirizzare le persone verso sì idee strampalate, ad esempio negare certe cose, credere che alcune cose non siano state fatte, certe azioni terribili, eccetera. Quindi ne abbiamo anche qualche esempio politico, purtroppo ultimamente, di cercare di dire no, ma lì forse abbiamo un po' esagerato, eccetera. Quindi nel dire, quindi direi che la memoria storica va mantenuta tutta, quindi la storia che sia architettonica, perché l'abbiamo davanti, quindi insomma confutarla o ti metti con lo scalpello a sistemare il monumento rimane lì, cioè va spiegata, va detto perché è stato fatto, va detto il motivo, eccetera, e va soprattutto spiegato il perché, perché io credo che se si riesce a far comprendere il motivo o quello che ispirò a quel tempo anche quelle persone, quegli architetti o quegli storici o qualsiasi persona lavorò a questi progetti, e il motivo vero, e secondo me tante volte si fanno meno danni che non spiegarlo, perché chiaramente non si creano false verità. Quindi io mi sono ovviamente concentrato su questo periodo qui perché le fotografie che mi hanno mandato sono fotografie che qualcuno si è, che che qualcuno ha trovato nell'archivio storico, che si è scaricato da qualche sito, chi aveva a casa, perché comunque ci sono delle foto anche che provengono da casa, e, ad esempio me ne hanno mandate parecchie del Lido, chiedendomi anche il perché, il motivo, in che contesto venne fatto il Lido, perché aveva questa forma. Qui ci sono varie teorie, ad esempio le vasche, se voi vedete sembra che formino una L, la L di Vittorio. Ecco, ad esempio questo giochetto il fascismo e questi messaggi subliminali li metteva. Ad esempio l'Eurac, vi siete mai accorti che ha una torre bella alta? Ecco, Mussolini diceva: ogni campanile di chiesa deve corrispondere una bella torre o di casa del fascio oppure di altre strutture, perché quando una persona da lontano vede una città, vede campanili di chiese, sono le strutture più alte. Durante il fascismo si cercò di fare queste strutture che andavano verso l'alto, non a caso, perché comunque lo studio di Città che sale non è uno studio fascista, ma è uno studio futurista. Boccioni, Città che sale, non era una persona che aveva teorizzato chissà quali idee politiche, ma aveva semplicemente cercato di pensare una città fatta in maniera diversa. In fin dei conti lì eravamo a fine 800, inizio 900, quindi insomma non vi erano tutte le fantasticherie di adesso, e pensare a una città che salisse era sicuramente più fantascientifico che pensare a una città che si espandesse in questo modo qui, quindi in orizzontale. Quindi il Lido, ad esempio, una struttura che secondo me è significativa per la nostra città, perché, e questo basta chiederlo a qualche turista, la domanda che puoi fare a un turista che viene a Bolzano è questa: secondo te un bolzanino sa sciare o nuotare? E lui ti dirà: sa sciare. No, la maggioranza dei bolzanini sanno nuotare. Perché? Perché abbiamo questa struttura che comunque ci è stata costruita e che siamo abituati ad avere a che fare con l'acqua, anche se abitiamo in mezzo alle Alpi, e paradossalmente i bolzanini sanno più nuotare che sciare. Questo è un aspetto sociologico che è venuto a crearsi per un ideale portato qui negli anni 30. Perché? Perché il Lido fu fortemente voluto dal partito fascista. Addirittura all'inizio c'era la sabbia venne portata dalle spiagge di Riccione, eccetera. Quindi questo tipo di discorso, qui vennero fatti venire degli italiani che non abitavano sicuramente in montagna, quindi dovevano dare a questi italiani l'idea di essere bene in Italia, no? Perché insomma in Italia sì, ci sono le Alpi, ma c'è soprattutto il mare, allora abbiamo queste piscine, queste vasche ampie. Infatti anche la struttura del Lido è una struttura molto ampia, larga, grande e monumentale, come monumentale tutta la zona che vi ho raccontato prima, insomma, quindi Piazza Vittoria, che era il fulcro di questo sogno. Sì, queste sono questa è una foto. Ecco, ad esempio, questa è la classica scala, che è molto bella, che c'è ancora, esatto. Quindi questa è una struttura proprio che ha dentro di sé tanti aspetti. Ecco, e questa è questa è una bella foto, perché si vede questo famoso discorso della L, che, ripeto, queste sono delle teorie che possono valere e non valere, non è detto che sia stata fatta apposta, però comunque la struttura è a L, e nel resto d'Italia le colonie marine spesso venivano fatte a L, da Vittorio doveva sempre apparire, quindi diciamo che l'architetto un contentino al duce lo doveva dare quando faceva se no non lavorava, quindi insomma troppo per lui doveva fare in questo modo qui. Quindi ecco, il Lido è una struttura che veramente... Ecco, questa è una fotografia, ad esempio. Ecco, qui il bello delle nostre foto, non abbiamo voluto metterle in ordine di nessun tipo, e non abbiamo voluto catalogarle da un punto di vista appunto di anni, di decenni, eccetera, perché le abbiamo catalogate come storiche. Ad esempio, questa è una foto antecedente al periodo del ventennio, è la cremaliera del Renon, questa qui. Quindi... questo periodo storico di pre-annessione all'Italia fu comunque un periodo storico importantissimo per la nostra città, perché vennero costruite e poi demolite, non dal fascismo però, vennero demolite dopo, per svariati motivi, vennero costruite una serie di collegamenti ipertecnologici per l'epoca, quindi funivie, cremaliere, tram, c'era il tram che andava fino a Live, adesso si parla di rimetterlo in Viale Druso, ce l'avevamo già, però è stato poi tolto per politiche varie, eccetera. Quindi ci sono una serie di aspetti della nostra città che non sono solamente legati a quel periodo lì, anzi il nostro sito infatti le foto le abbiamo catalogate come storiche, perché secondo me proprio è un discorso che deve essere fatto sempre in parallelo e in amalgama, che non si creino mai contrapposizioni, quindi che non ci sia mai una contrapposizione del prima e del dopo, ma era meglio prima o era meglio dopo? No, siamo adesso e siamo il frutto di un'unione anche delle volte violenta, purtroppo alcune cose sono state violente in quel periodo lì, e ci sono stati degli anni che vengono ricordati come molto violenti, ed è giusto che siano ricordati. Ecco, ad esempio, quest'altra foto, l'Hotel Grifone, siamo avanti con gli anni, come vedete l'abbiamo proprio messa come ce le hanno mandate. Ripeto, alcune fotografie io le ho riconosciute perché avevo dei libri a casa, quindi qualcuno le ha semplicemente scannerizzate, forse aveva qualche pezzo di libro e le ha mandate, e le abbiamo pubblicate tutte perché comunque è stata una sorta di rispetto anche per le persone che ce le hanno mandate, perché sono tutte persone che avevano vissuto a Bolzano e che avevano quindi una certa nostalgia di Bolzano, e quindi sembrava giusto anche alcune che sono un po' dei doppioni di metterle lo stesso, perché insomma secondo me una volta viste ci sono rimasti bene, insomma è stata una sorta di regalo che abbiamo voluto fare a queste persone. E questa è la stazione appunto che venne costruita nell'Ottocento, che collegava al tempo la città vecchia, quindi arrivava il treno alla città vecchia, quindi al centro storico di oggi, e però poi dovettero costruire un tram per arrivare fino a Gries, perché appunto a quel tempo lì Bolzano era rinomata per avere delle strutture termali, per avere una serie di sanatori, e il tram venne costruito in pratica appunto partendo dalla stazione e arrivante a Gries, che era staccata dalla città di Bolzano, poi venne unita lì durante il fascismo e ribattezzato Rione Tiberio, quindi addirittura tolto il nome. Ecco, queste sono le cose che bisogna dire, secondo me, nel senso che comunque è un po' innaturale chiamare un rione come Gries Tiberio, è palese che sia stata un'invenzione a tavolino, quindi ovvio si richiama Gries, adesso si spiega perché si è chiamato, perché ci sono alcune foto che hanno che ho visto in vari libri che hanno appunto il tram con scritto sopra Tiberio, quindi devi spiegare questo Tiberio, oltre ad essere un imperatore romano, dov'è? A Bolzano non c'è nulla che si chiama Tiberio, quindi va comunque spiegato. Si potrebbe fare un'analisi come venivano chiamati i rioni, rione Dux, quello delle semirurali, ovviamente, perché Mussolini ci teneva particolarmente a fare bella figura con la popolazione contadina, vi ho dato una casa, un lavoro, e poi non vi ho dato nessun servizio, però vi ho dato una casa, un lavoro e un bel rione, quindi quello è il rione Dux. Il rione Tiberio invece era il rione Gries di oggi, che cambiò nome e poi però tornò fortunatamente Gries dopo la guerra, perché insomma è originale, è l'originalità. Ci sono poi alcune fotografie che proprio, ad esempio questa, se adesso si apre. Ecco, questa fotografia qui è una fotografia abbastanza significativa perché è stata scattata nel 1949 e sinceramente se non avessi visto la data, ci sono i carabinieri, però avrei pensato fosse stata scattata prima del 49 da una serie di posture che vedo nelle persone, quindi la classica camminata, il codazzo, la personalità in mezzo, eccetera eccetera. Adesso non sto qui a ricordare chi fosse e chi non fosse, proprio perché adesso non mi interessa, era solo per farvi capire. Ecco, se torna indietro, questo è l'Eurac visto dall'alto in una foto, ovviamente il complesso GIL, anzi si chiamerebbe più che ex GIL Eurac. Ecco, questo complesso, se voi vedete, notate che c'è anche qui la L, quindi Può darsi appunto che gli architetti abbiano voluto inserirla, oppure gli sia stato detto e poi ovviamente non hanno potuto poi dire no, non la inseriamo, quindi l'edificio L della parte principale. Come dicevo, l'architetto che lo ha rimesso a posto non ha violentato la struttura, anzi l'ha resa moderna, ha eliminato la parte in muratura perché era in condizioni, ho visto delle foto, era veramente in condizioni assurde, e quindi ha creato quella struttura di metallo e di plastica e che va a unirsi. E secondo me l'EURAC è un bel esempio di unione, che può essere preso proprio come esempio di unione tra culture, perché comunque l'architetto era austriaco e il primo era italiano, quindi si potrebbe fare anche questo discorso, cioè i monumenti delle volte possono essere anche utilizzati, e secondo me certe volte possono essere utilizzati anche quelli ultra cioè quelli che proprio creano proprio frizioni, come ad esempio il Monumento alla Vittoria, come piazza Tribunale, anche quelli possono essere tranquillamente, se si vuole, utilizzati per un certo tipo di unione, se si vuole, poi se non si vuole lì è un altro discorso, però se si vuole si possono utilizzare. Ad esempio in Piazza della Vittoria, e questo l'ho pensato io senza leggere nessun libro, a me non viene in mente non vengono in mente imperi, imprese, eccetera, semplicemente guardando il Monumento alla Vittoria da persona amatore dell'architettura, amatore della storia, ma senza pensare, mi viene in mente il bianco e il rosso, dietro c'è il Catinaccio, davanti c'è il Monumento alla Vittoria che è bianco, quindi mi vengono in mente due colori, bianco e rosso sono i colori di Bolzano, a me era venuto in mente quello, potrebbe essere un messaggio. A Roma per esempio l'Eur, che è un rione costruito in epoca fascista per esaltare il regime, che poi non venne completato, famoso è il famoso Colosseo quadrato, cioè il palazzo della civiltà dell'Eur, e quel palazzo, che anche a Roma venne contestata la sua ristrutturazione eccetera, venne utilizzato per fare dei video musicali di un gruppo moderno in Negramaro, che però ripresero delle canzoni tipo Meraviglioso, che è una canzone appunto che magari voi conoscete, però è stato cioè il contesto è stato tolto, non è più un monumento, ci sono dei frontoni con delle scritte che inneggiano al popolo italiano eccetera eccetera, però è stato tolto da quel contesto e messo in un altro contesto. Quindi penso che se l'abbiano fatto lì, che era un rione un po' più grande, si potrebbe anche fare con le strutture non enormi che ci sono a Bolzano per esempio. Quindi Piazza della Vittoria, che è la piazza oggettivamente che crea più imbarazzo da una parte e dall'altra, si potrebbe cercare di dare un messaggio di unione, che è la cosa migliore, cioè penso che l'unione non possa essere contestata da nessuno. Ecco, poi ci sono queste foto che sono state prese anche da libri, quindi queste le trovate tutte sul sito. Ecco, questo era il Cinema Corso, che è stato appunto poi demolito purtroppo perché era una struttura molto bella, quindi ecco ad esempio qui siamo già nel 48, lo vediamo anche da Vota Socialismo, quindi siamo andati in avanti. Secondo me è anche più interessante guardare delle foto storiche in questo modo, perché si possono fare dei confronti anche non so, l'abbigliamento, la postura delle persone, i colori, si possono prendere degli spunti per fare anche dei discorsi di tipo sociologico, siamo nel 48, allora appunto vedo, questo si può fare con dei ragazzini, si può fare con degli adulti, si può fare con chiunque. Quindi credo che comunque anche Bolzano offra un sacco di spunti per dare e dei messaggi di questa era Corso Italia appunto in completa costruzione, appunto perché come vi dicevo prima la parte dove siamo adesso era assolutamente campagna, come la zona industriale del resto, erano due zone non edificate che vennero appunto prese e edificate durante il regime fascista, perché appunto si voleva creare un nuovo centro, il cuore amministrativo, con il monumento, perché chiaramente quello era il simbolo della vittoria, eccetera, e una serie di palazzi che appunto ospitassero tutte le varie cariche. Poi si sa, no, che la storia delle volte è un po' particolare, tutte le più grandi però, una delle decisioni più importanti di Mussolini, e forse una delle ultime sue trovate, quindi la guerra d'Etiopia, non la fece in quegli edifici, ma la fece negli edifici della Città Vecchia, perché il Consiglio dei Ministri che decise l'invasione dell'Etiopia si fece nella nostra Città Vecchia, pochi lo sanno, ma si fece lì, e quindi, insomma, ironia della sorte, si trovò lì anche lui, insomma, in quegli edifici che avrebbe voluto violentare, alla fine li utilizzò anche lui, e li utilizzarono anche i suoi gerarchi. Quindi Bolzano, da quel punto di vista, diciamo, si difese in un certo senso, la storia la difese, e quindi questo aneddoto può essere raccontato. Quindi adesso qui ci sono delle altre foto, ecco, qua ad esempio siamo nel 68, Cristo Re con il campanile staccato, quindi è una chiesa un po' particolare, e sono queste famose vie che danno il senso proprio dell'ampiezza della costruzione, quindi l'ampiezza delle strutture, ed è qui appunto che il discorso, secondo me, deve passare dal fascismo al futurismo, perché l'idea non è un'idea fascista, è un'idea futurista che è diversa dall'idea fascista, nel senso che comunque poi il fascismo è andato a scopiazzare e a prendere alcuni spunti, è il fascismo che è andato a scopiazzare l'impero romano, non è l'impero romano che ha scopiazzato il fascismo, quindi anche queste piccole, lo stesso, cioè, i fasci littori nell'antica, la Repubblica Romana, cioè, arrivava il console romano e portavano i fasci. C'erano due persone che facevano quel lavoro lì, quindi non sono simboli. Purtroppo noi leghiamo questo simbolo a quello che è successo, quindi dobbiamo spiegare il motivo, il perché è stato usato, e lo dobbiamo togliere da quel contesto storico. Ormai credo che dopo tutti questi anni si possa anche fare un discorso di questo tipo, sempre stando attenti però di spiegare che, insomma, quel periodo storico non è stato florido, anzi è stato... auspichiamo tutti che non arrivi un altro di periodo simile, insomma, per un motivo o per l'altro, quindi l'abbiamo già passata, però ci ha lasciato in tutta Italia una serie di documenti architettonici. C'è un bel libro che si intitola Fascismo di Pietra e che fa un discorso prettamente architettonico, quello che è stato costruito, quindi c'è la famosa montagna col profilo di Mussolini, le città costruite dal fascismo, l'ex Littoria, ora Latina, oggi adesso vorrebbero ricambiare nome perché anche lì hanno problemini, c'è chi vuole, chi non vuole, quindi Sabaudi, eccetera, eccetera. Questo, ecco, stabilimento della Lancia, e quindi la contrapposizione tra la Bolzano industriale, quindi sempre qui il fascismo costruì queste industrie pesanti, un'industria pesante, una città che fino a quel momento aveva vissuto su sanatori per tisici e alberghi e zona turistica d'élite, veniva l'imperatore d'Austria, diventò di colpo una città industriale dove venivano costruite armi, eccetera, eccetera. Negli anni 60 però le fabbriche appunto non vennero demolite, rimasero, e quindi Acciaierie ci sono ancora oggi, la Lancia, adesso oggi c'è ancora l'Iveco, eccetera. Quindi questa è una parte di Bolzano chiaramente più cara magari all'etnia italiana, perché chiaramente la maggioranza degli italiani ha lavorato in zona industriale, che ha vissuto a Bolzano, penso che qualsiasi persona abbia qualche parente che ha lavorato in zona industriale. Quindi adesso anche quell'aspetto in questo periodo si è mischiato, però, perché comunque nelle zone cosiddette popolari ci sono un sacco di persone che parlano il tedesco, quindi come vedete col passare degli anni, per fortuna, si mischia un po' tutto, quindi anche certi discorsi vanno a cadere. E delle volte delle fotografie possono, secondo me, spiegare il perché si è arrivati a quel tipo di fusione, il perché si è arrivati a quel tipo di polemica anche, il perché, eccetera. Ecco, anche queste sono delle foto molto belle, Cade Bezzi, e secondo me comunque si sa anche, cioè si fanno pochi studi seri anche sulla Bolzano cosiddetta asburgica, perché anche quel periodo lì non è che sia proprio... messo in evidenza sotto certi aspetti, cioè, si tende un attimino anche lì un attimo a generalizzare, invece quello fu un periodo importante, diede là a una catapultò Bolzano nell'età moderna, in pratica, con la stazione, con le funivie, con i collegamenti con il Renon, perché il Renon sembra vicino, ma fecero questo trenino che andò fin lì, però a quel tempo gli abitanti del Renon non erano molto contenti del trenino, perché dicevano che andava un po' a rompere la quiete dell'altopiano, eccetera. Quindi vedete, comunque questo tipo di discorsi si sono sempre fatti, anche il 12 Ville che non voleva andare. Quindi secondo me sono discorsi che possono essere riproposti in una chiave più moderna e rivisti. Sempre da un punto di vista moderno, cioè chi parla di queste cose deve avere ben chiaro che siamo nel 2012. Ecco, questa è Viale Venezia, come vi dicevo, che se voi la prendete, no, e la paragonate a Piazza Vittoria, dite ma sono due epoche storiche completamente diverse. Invece questo era il rione dedicato alla cosiddetta elite, e Piazza Vittoria invece era il rione monumentale. Quindi nello stesso periodo vennero fatte strutture di questo tipo, ad esempio adesso io sto tirando fuori quelle che magari ci ricordiamo di più, ad esempio via Cadorna, quindi le scuole, sempre però uno sguardo all'industria, quindi l'ITC soprattutto, il Fiore Arrocchiello era del regime, perché appunto portava l'industria, la modernità, e questa è un aspetto, è un'idea accoppiata dal futurismo, perché i futuristi erano per il movimento, l'azione, per cose ultra mega fantascientifiche, odiavano la letteratura classica, odiavano tutto quello che era 800, avrebbero tranquillamente fatto a meno di leggere il Leopardi perché era noioso, perché non andava in macchina, eccetera. Quindi fu così, il fascismo prese questi aspetti, prese molto di D'Annunzio, perché D'Annunzio era un futurista di un certo tipo, un po' ingombrante anche lui, prese questi aspetti e li fece propri. Poi dovevano fare in modo che gli italiani si sentissero qualcuno a quel tempo, e quindi iniziarono col lavaggio del cervello, paragonando Mussolini a Cesare, quindi paragonando l'impero romano al fascismo, e questi aspetti li ritroviamo in architettura, perché è chiaro che Piazza Vittoria e l'arco di Piacentini assomigliano a ciò che costruivano i romani, non è che, però lo fece anche Napoleone, che non era fascista, era un megalomane, quindi ogni megalomane nella storia è andato a prendere il megalomane secondo lui migliore, no? Non è un discorso di quel tipo, secondo me, non è un discorso tanto aulico, e semplicemente era un megalomane che ha preso quell'aspetto lì. Chiaro che l'architetto a Bolzano, io credo che Piacentini, Sottsass e compagnia bella, dal loro punto di vista, ebbero una fortuna a lavorare qui, perché comunque Bolzano era un bel laboratorio architettonico, perché non aveva tutti quei paletti che potevi incontrare in altre città italiane che avevano un'urbanizzazione anche più antica, perché l'urbanizzazione di Bolzano prima si limitava più che altro al centro storico, non si limitava ad altre zone. Quindi comunque ebbero carta bianca su certe cose, su altre no, come vi ho spiegato prima, appunto Mussolini avrebbe voluto modificare addirittura la struttura dei portici, quello no, si opposero gli stessi architetti, quindi in pieno regime, qualcuno col cervello c'era anche a quel tempo lì. Questo aspetto io l'avevo letto in una relazione di un professore universitario che appunto diceva che queste persone andrebbero comunque tutelate, almeno si parlasse di questo episodio, perché hanno rischiato a fare ciò. Sì, esatto, via Rodi. Ecco, anche questo complesso è... No? No? No, no. È via Dalmazia, sì. Perché è il pezzo. E anche qui adesso non bisogna farci ingannare da come adesso, perché anche qui è l'ampiezza, adesso ci sono le macchine parcheggiate, eccetera, però era sempre l'ampiezza, quindi rioni molto ampi. Eccetera. Volevo farvi vedere un'ultima foto per chiudere, con un rione che sicuramente a Bolzano è un po' nel cuore di tutti. No, non è questo, però anche questo può essere nel cuore, perché ecco, qui abbiamo delle case che non sono le semirurali, questa è sempre edilizia popolare, eh? Queste non sono le semirurali, sono dei caseggiati che troviamo in tutta Italia, cioè qui diciamo che quando si passeggia per via Torino dà più l'idea di essere in Italia, perché queste strutture le troviamo in Italia. Domanda che può essere fatta da un turista, può essere fatta da una persona che magari a Bolzano ci viene poco, oppure può essere anche fatta da un bambino, da un adolescente, da un ragazzino che non sa il perché e dice ma come mai lì c'è questa struttura eccetera. Forse spiegando il motivo magari delle volte si evitano appunto. Quindi queste strutture sempre molto lineari e non monumentali però, perché non sono monumentali, però sono comunque lineari, razionali, infatti il razionalismo italiano, l'architettura è questa qui, un'architettura razionale, funzionale e funzionale all'azione che deve fare, che deve svolgere, quindi non ci sono i fronzoli oppure il barocco, ci sono delle strutture che servono a quello, cioè la scala serve per salire, non è che c'è una scala per bellezza, anche se all'Eurac c'è il famoso campanile che non serve a niente, è solo un simbolo, perché il campanile è vuoto, quindi i campanili delle case del fascio non servivano a niente, servivano solo a dire ci siamo noi, basta, però non servivano a niente, quindi vedete anche questo aspetto, non è proprio un aspetto dell'architettura razionale, qui è il fascismo che ci ha messo il suo dentro, quindi non deve essere, deve essere staccata, questa, bisogna spiegare il perché c'è quello, diciamo, è razionale, no? In quel modo lì è stato l'architetto che ha dovuto inserire, purtroppo, perché a quel tempo lì è così. Era così, quindi io avrei anche concluso una qui dovrebbe esserci bene, volevo far vedere le semirurali dall'alto, perché era una bella foto quella, per far vedere la differenza. Ah beh, questa per esempio è via Museo. Questa è la Sparkasse, questa è, quindi è una foto del 1908, antifascismo, vedete il fascismo l'ha modificata in questo caso, ha iniziato questa opera di modificazione, però non l'ha demolita perlomeno, almeno. E, dall'altra parte, adesso non so se qua riesco a trovare delle belle foto del Museo Civico Moderno, e vediamo la torre del museo, poi non c'è più, però nelle foto nuove c'è ancora, ecco, quello è stato un virtuosismo che ci potevamo risparmiare, però insomma fa parte anche quello della storia di Bolzano, può essere spiegato, no, il motivo perché è stato fatto, e, museo che venne costruito appunto durante l'epoca di Altman, quindi a fine 800, nel periodo in cui le scoperte archeologiche destavano una grande curiosità. Quindi vedete che comunque c'è la storia mondiale, la si può fare anche con la nostra città. E molte volte viene un attimo retrocessa e secondo me ha torto, perché comunque si può fare storia dall'epoca romana fino a oggi anche solamente con la nostra città, perché ha degli aspetti che sono stati portati. Adesso quella bella foto io qui non la trovo, comunque era una foto che significativa, perché appunto faceva vedere il rione delle semirurali dall'alto. E chiaramente era completamente diverso come rione rispetto ai rioni che vi ho fatto vedere fino adesso, quindi più residenziali, più proprio dedicato e costruito per gli operai, per persone che vivevano in campagna, e vi ricordate queste casette, ce n'è ancora qualcuna, una è stata fatta a museo, eccetera, e quindi proprio questa spaccatura, quindi nello stesso periodo storico abbiamo tre diverse architetture buttate lì. E che ci sono rimaste a pezzi, perché chiaramente un po' sono state demolite, alcune cose, vabbè, giustamente anche perché per far spazio anche al nuovo, perché sennò saremmo ancora. E quindi, secondo me, appunto, il discorso di fusione, ripeto, ho messo sogno spezzato, perché ovviamente Bolzano, come la volevano durante il fascismo, per fortuna non l'hanno, per fortuna o per sfortuna, architettoniche parlo, non sono riusciti a compierla, quindi a svilupparla da un punto di vista urbanistico, perché appunto poi c'è stata la guerra, quindi chiaramente Bolzano imperiale, italiana, 300.000 abitanti, siamo arrivati a 100.000, perché l'idea originale era 300.000, non 100.000, quindi non so fino a che punto, quindi Lives, Compagnia Bella, tutto preso, quindi questo tipo di progetto imperiale proprio venne a cadere, e ci ritrovammo dopo la guerra a dover risistemare anche alcune cose, perché non è che ci fu solo positivo, ci fu anche tanto di negativo, quindi poi i cocci sono stati risistemati in questi anni e abbiamo una situazione insomma che troviamo adesso. Io avrei concluso. Se avete delle domande sono a disposizione. Attraverso internet, perché magari non tutti hanno la possibilità di accedere a internet, credo. Sì, infatti si potrebbero anche stampare alcune dal sito. Una pubblicazione, qualcosa. Sì, lo so che magari io ho portato il sito internet perché appunto penso sia adesso il veicolo più, però si può anche fare una piccola pubblicazione magari con quelle più significative, o si possono anche spiegare, lasciarle qua in biblioteca, non c'è assolutamente problema. Se avete delle domande io sono a disposizione. Prego. Tutte le tensioni sono che passate veramente in una simpatia. Grazie. Grazie. Allora, intanto ci sono anche libri per approfondire certi argomenti qua in biblioteca, e comunque io vi ringrazio per l'attenzione, grazie. Ci vediamo di nuovo il 13 febbraio. Lì solo tram. Basta.